a nata lì. Scusi, ma come stai? Tutti quanti addormentati sono ancora. Sono già le 6, sono già un'ora e oltre io in attesa che qualcuno si affacci, ma niente da fare. Stavo chiamando poco fa. Ma cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica, Vattani? Andare così, dai. Vabbè, io stavo guardando adesso il 90° minuto, prima c'era la partita, c'era, e poi ho cambiato sul 2 per vedere il 90° minuto, ascoltando le interviste dei vari allenatori, eccetera, eccetera. E nel frattempo acceso, magari un po' silenziato era, per cui se c'era magari un segnale bassissimo non lo potevo sentire. Attento Marco! Ecco, stava mangiando. Ma è andato a controllare la sua ragazza, Platamona. Ah, che sia la sua ragazza. Ah, così. Oggi, visto che la giornata lo permette, per cui magari uno con un bel giubbotto per non avere freddo, però glielo permette la giornata. Perché non fischi di meno e parli un po' di più, che è meglio? Fruscia fruscia, parla se devi parlare. Attenzione, città di Gigi, cambio. Volà. Scusi, esiste qualcuno?